Se guardiamo la Terra dallo spazio, possiamo ammirare gli immensi oceani che avvolgono i continenti. Quasi tre quarti della superficie del nostro pianeta è ricoperta da acqua. Benvenuti. Martedì 8 giugno, ciao a tutti e a tutti, e questa è Radio Onda Rossa, tornano da queste città. (0649 17 50) per mettervi in contatto con noi, e www.ondarossa.info, il sito dove andare a sostenere Radio Onda Rossa. È piovuto un oceano dal cielo, Fabio. Sì, sì. Ciao, Fa. Ciao, Ale. Come ciao stai? A tutte. Ciao a tutti. Bene. Bene. A te com'è andata la traversata atlantica? Bene, ti dirò. Bene, faticosa, ma bello. Sono abbronzato, vedi? Guarda. No? Però, insomma. Non sapevo che eri anche skipper. Gagliato. Assolutamente, skipper. No, diciamo che è un po' la prima occupazione, skipper. Ma dai. Vabbè, facile facile oggi, dove andiamo, no? Beh, ce l'ha detto il signor Angela a inizio puntata, perché ha sentito la sigla. Oggi 8 giugno abbiamo preso spunto dal fatto che oggi appunto si celebra la giornata mondiale degli oceani, e abbiamo pensato di dedicare la nostra puntata appunto all'oceano, come si dovrebbe dire, o agli oceani, insomma al mare in sostanza. Cioè, anche facciamo un breve, Ale, sì. Che dice, un breve intro un po' più seria. Vai. Diciamo che la giornata mondiale è stata istituita nel 92, quando nella famosissima conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile. Poi è stata adottata dall'ONU da pochi anni, da una decina di anni, se non vado errato. E quindi al di là delle istituzioni, al di là del fatto dell'utilità o meno delle giornate mondiali, diciamo che il tema, la questione è certamente seria. L'oceano, diciamo il mare, è per noi tutti fonte di, soprattutto pensiamo al divertimento, allo svago, per chi almeno lo ama, il mare per chi lo frequenta, ma poi il mare è tanto, è fonte di vita, il mare produce ossigeno, il mare offre tante risorse, dal pesce per chi non è vegano o vegetariano, anche il cibo del futuro, le alghe, se ne parla. I coralli per chi li colleziona, no? I coralli forse non dovrebbe toccare le barriere coralline, ma poi appunto da ossigeno, conserva, trattiene tantissima anidride carbonica, CO2, che è il principale dei gas serra. E poi il mare, questo è quello che dà a noi il mare, quello che gli oceani danno a noi. Poi noi prendiamo tanto, troppo dagli oceani, prendiamo troppo pesce, sfruttiamo troppe acque, sono contese per ragioni di produzione energetica oppure per la ricerca di minerali utili per tantissimi apparecchi tecnologici, e ci buttiamo soprattutto tanto schifo dentro. Ci buttiamo tanto schifo, no? L'ultimo schifo, diciamo così, è il disastro che è avvenuto al largo dello Sri Lanka 7-8 giorni fa, quando è affondato un portacontainer e devastando un tratto enorme di mare appunto a largo dello Sri Lanka. Ma al di là di quest'ultimo accadimento, la fonte di inquinamento più facile da spiegare è l'enorme quantità di plastica che buttiamo nei mari, tant'è che ormai è cosa nota, l'isola di plastica, che poi forse più che isola è un continente vero e proprio, che si è formato nel Pacifico, adesso non ricordo la latitudine, comunque parliamo di una dimensione che sfiora due volte la Francia, insomma, quindi qualcosa anche di difficilmente quantificabile, immaginabile. Poi c'è il problema appunto della crisi climatica, del cambiamento climatico, della produzione dei gas serra, che stanno provocando diversi problemi al mare, tra cui il principale è l'aumento della temperatura media delle acque, quindi una tropicalizzazione dei mari, che ha ha effetti già devastanti, potrebbe averne ancora di peggiori, sarà a noi, a quello che accadrà in futuro, e basta, e finiamola qua. Diciamo che l'intro abbiamo voluto un po' fare i seri, però a dispetto di quello che ho detto, la puntata la cominciamo in maniera abbastanza leggera. Invece la cominciamo con una canzone di Carter Barnett, la nostra cantautrice australiana preferita, l'abbiamo passata diverse volte qui. Il pezzo si chiama Acqua Profonda, è contenuto nel suo debutto, il folgorante album del 2015 chiamato Sometimes I Sit and Think e Sometimes I Just Sit. La canzone l'abbiamo scelta perché, oltre perché è molto bella, perché lei appunto racconta il mare nella sua dimensione più facile, diciamo così, più immediata, cioè quella di fonte di divertimento e, perché no, fonte di magari un luogo giusto per rimorchiare. In questo caso lei racconta di una ragazza splendida che ha visto nuotare in moda, così parte il pezzo, la prima strofa racconta di questa ragazza che nuota con un perfetto stile libero, lei cerca di fare di tutto per colpirla, per adescarla. Sì, e vuole fare bella figura, quindi si impegna anche lei in cerca di nuotare nella maniera migliore possibile, cerca di seguirla, però il risultato è che quando stanno tornando indietro, mentre lei ancora non ha raggiunto la riva e diciamo è in crisi di ossigeno, la ragazza ha già preso l'asciugamano e già sta andando via. E che sfiga. Cominciamo così, Carter Barnett, Acqua Profonda. Profonda, Carter Barnett. Sarà breve ma molto intensa. Poi dall'Australia capirai, Carter Barnett, l'oceano è roba sua, eh? È roba di casa, sì. E dall'Australia ci trasferiamo tra Scozia e Irlanda, insomma ci trasferiamo in Gran Bretagna. La prossima canzone viene da un album splendido, un album si chiama Fisherman Blues, un album dei Waterboys uscito nel 1988. Già immediatamente fu accolto come un capolavoro, no? E negli anni, nei 30 anni e passa che sono passati, non fanno che confermare il fatto che appunto di capolavoro si tratta. La big music che aveva caratterizzato, così veniva definito il loro genere, che aveva caratterizzato i primi tre album della band e sono un ricordo, quindi in questo album la band di Mike Scott ritorna in qualche modo alle radici della musica popolare britannica, che in sostanza è soprattutto la musica celtica, non solo celtica ma soprattutto quello, tant'è che lui scozzese passerà nel comporre questo album, passerà 2 o 3 anni in Irlanda. Insomma, il disco è veramente impregnato di verde umido d'Irlanda, come diciamo così, fammela passare, allora, non mi guardare male. Verde alga. La canzone si apre con una... no, la canzone, scusate, l'album si apre con la canzone che dà il titolo all'album, che è quella che ci ascolteremo, appunto, Fisherman Blues, una ballata trascinante scritta a quattro mani da Mike Scott insieme a Steve Wickman, che entra nella band in questo disco, un violinista, e il violino fa alla parte proprio del leone, insieme alla voce appassionata di Mike Scott, che canta una leone marino epica e allo stesso tempo struggente. Leone marino, leone, certo, marino, sì. Scusa, non l'ho specificato, pensavo fosse ovvio. Fisherman Blues è una canzone su un pescatore, ma non è cantata da un pescatore. È un blues che però non è davvero un blues, perché di fatto è un gospel mascherato, è un inno alla natura, un inno al mare, un inno a un passato idealizzato, e come tutti i gospel però è anche un inno al futuro, un futuro che porta con sé la promessa di un domani migliore, dove i problemi sono alle spalle e dove l'esistenza è meno complessa. E Fisherman Blues in sostanza canta di fughe, della ricerca di qualcosa di più semplice e di più grande, come appunto il mare. Loro sono i Water Boys, la canzone è Fisherman Blues. Woo! Fisherman Blues per gli Water Boys. Scusa se sono venuto, posso mettere un pezzo? Beh, grandissimo, grazie, mitico. Allora, ci spostiamo da una barca di pescatori a quella di una traversata in solitaria nell'oceano. Non è la mia, Fabio, quella che sto per leggerti, non sono mie queste parole. Vento nelle mie vele, ho vissuto per giorni, niente acqua, niente cibo, andava bene, non mi importava. È uno stralcio del testo di Sailing, tratta da Elson Digest, quinto splendido album per i Dirante. A me quindi il compito di rallentare adesso un po' il ritmo. Album uscito ormai nel lontano 2010, appunto un viaggio in barca a vela, in solitaria, in mezzo all'oceano. C'è un'interpretazione di questo testo, dunque innanzitutto ci sembra veramente un ottimo connubio quello tra il testo scritto e la musica dei Deer Hunter, che riescono a trasmettere perfettamente questo senso di anche di impotenza, solitudine, insomma, di trovarsi. Deve essere un'esperienza molto particolare trovarsi da soli in mezzo all'oceano, potendo contare soltanto su se stessi. E c'è un'interpretazione di questo testo che vedrebbe quella del uno stato d'animo che il cantante Cox descrive, una persona sola appunto in mezzo all'oceano, quindi che è capace di contare soltanto esclusivamente sulle proprie forze, e sembra, qualcuno dice, che descrive se stesso, affetto fin da bambino dalla sindrome di Marfan, una rara malattia che interessa il tessuto connettivo, e quindi dice anche nella canzone: solo la paura può farti sentire solo qui fuori, impari ad accettare qualunque cosa tu possa ottenere. Quindi ogni cosa che fai è una vittoria, un qualcosa che ti spinge anche ad andare avanti. Sailing per questo splendido Deer Hunter. Whatever you can give. Sailing per Ramter, mappa se abbiamo cambiato atmosfera, eh? Grazie per i timpani. Scusa. Il prossimo artista è un artista che credo che quasi nessuno potrebbe mai associare all'oceano, al mare, perché parliamo di Lou Reed. E una breve premessa per spiegare che album, da quale album abbiamo scelto la canzone e quale canzone abbiamo scelto. Siamo nel 1989, questo è l'anno di uscita del disco. Lou Reed ha 47 anni, alle spalle ha già avuto il ruolo di frontman di una delle band più importanti della storia, cioè Velvet Underground, e già una lunga carriera da solista. Ha piazzato almeno 3 capolavori, Transformer, Berlin, Coney Island Baby, tutti però questi pubblicati negli anni 70. Gli anni 80 invece, la prima parte degli anni 80, sono stati anni abbastanza mediocri, cioè forse il momento più basso della sua carriera. Mette insieme 3 album, uno meno bello dell'altro, uno più brutto dell'altro, scegliete voi. Quindi Lou Reed ha l'intelligenza di capire che forse è il momento di fermarsi, non ha più quella creatività, quell'energia, quella forza che gli consente di fare un album di inediti all'anno più o meno, album belli poi, quindi decide di prendersi una pausa. Passeranno 3 anni prima dell'uscita del disco che stiamo presentando, che è New York. In questi 3 anni succede, c'è un fatto importante nella vita di Reed, un fatto che ha conseguenze anche dal punto di vista artistico, nel senso che gli darà quella forza che forse gli era venuta a mancare negli anni precedenti. È la morte di Andy Warhol, che se non musicalmente in qualche modo comunque è stato il suo, un po' il suo guru, la sua guida, comunque una figura, il suo mentore, una figura fondamentale nella carriera di Lou Reed. New York, appunto, uscito nell'89, è tra i migliori album solisti di Lou Reed, per molti fan, me incluso, è l'album migliore di Lou Reed. All'interno delle 10 tracce di cui è composto l'album c'è una canzone pazzesca, si chiama The Last Great American Whale, l'ultima grande balena americana. È uno dei testi più folli e più belli mai scritti dall'artista newyorkese, e leggerlo oggi a 32 anni di distanza fa ancora più impressione, non tanto per la sua bellezza ma per quanto è stato in qualche modo profetico. Lui inizia il testo nella prima parte della canzone, che poi la canzone è parlata, è un talking. Lui dice: dicono che non avesse nemici, la sua era una grandezza immensa, era l'ultima della sua specie, l'ultima da questa parte del mondo. Sta parlando appunto di questa grande balena americana. Vabbè, poi la storia seguitela o leggetela se non conoscete, se non capite l'inglese, cercate una traduzione perché merita. Comunque poi c'è una storia abbastanza folle, e poi arriva la canzone arriva, diciamo, al suo, probabilmente a quello che lui aveva intenzione, aveva voglia di sottolineare, di dire. Canta o parla meglio Lou Reed: beh, agli americani non importa niente di niente, men che mai dell'acqua e della terra, e la vita animale sta nella parte più bassa del loro totem, con la vita umana che vale meno di schiuma infetta. Agli americani non frega niente della bellezza, cagano nei fiumi, scaricano l'acido delle batterie nei ruscelli, guardano i ratti morti sbattuti sulla spiaggia e si lamentano se non possono farsi il bagno. Lou Reed, Last Great American Whale. They say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, the powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. A great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned, the browns and reds set free. But sadly, one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room. And thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. Lou Reed a Radio Onda Rossa. Dunque, racconta Bjork che quando il Comitato Olimpico le chiese di scrivere l'inno per le Olimpiadi del 2004, lei voleva qualcosa di epico, qualcosa che raccontasse appunto la globalità dell'evento, ma anche la lunghissima storia che le Olimpiadi portano con sé. E allora affidò al poeta islandese Sion Sigurdsson, che già aveva collaborato con lei, la scrittura del testo. La canzone è scritta dal punto di vista dell'oceano che circonda tutta la Terra, che veglia sugli umani per vedere come stanno dopo milioni di anni di evoluzione. Il mare, dice Bjork, non vede confini, razze diverse o religioni, come è e come dovrebbe essere lo spirito di questi giochi, ma anche probabilmente come dovrebbe essere un po' la vita sulla Terra sempre. Oceania sarà l'ultimo brano registrato da Bjork per il suo album Medulla, uscirà anche in un'altra versione come singolo proprio in occasione della cerimonia olimpica. In quell'occasione Bjork, andatevela a vedere se non, insomma, se all'epoca eravate piccoli o piccole e non avete visto in diretta la cerimonia olimpica, vestita con un abito tutto ondulato che ricorda ovviamente le onde, davanti a lei un telo azzurro enorme che riproduceva il mare, una performance vocale, la sentirete, lei canta la prima parte interamente a cappella, e impressionante, così come è impressionante la sua performance vocale su tutto il disco Medulla, in cui la musica è ridotta quasi all'osso per rendere unica protagonista la voce di Bjork. Non è quindi un caso che tra i collaboratori del disco e del brano Oceania, e questo è il titolo, mi sa che ancora non l'avevo detto, in particolare, oltre che di un altro brano, anche se a tema marino, Submarine, e ci sia proprio Robert Wyatt, e alla cui porta Bjork è andata proprio a bussare per registrare questo brano, dove il protagonista è appunto la sua voce. Il motivo lo scopriremo un po' più avanti nella nostra scaletta, intanto noi ce l'ascoltiamo, Bjork, Oceania. One breath away from Mother Oceania. Your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace and crawled out. batteries. I blink my eyes, hooks and spines. In my waters, stingrays are floating across the sky. Little ones, my sons. Che voce, eh? Pazzesca. E allora in tutto ciò ha chiamato una bambina e chiedendoci se potevamo mettere un brano tratto dalla colonna sonora del cartone animato di Oceania. Io ho diciamo provato il nome della bambina. Dunque la bambina si chiama Sveva e io ho provato Sveva a dirlo a Fabio. Fabio ha detto che se la mettiamo lui va via. Quindi dobbiamo decidere via le telefonate tra Oceania e Fabio in trasmissione. Allora, intanto andiamo avanti. Fabio non c'ha questa responsabilità e Fabio intanto va avanti. Tu vedi che riesci a, con due potenti mezzi, a trovare, ad accontentare una creatura innocente. Quindi Oceania cos'è? Un film di Disney? Penso Pixar, sì, quelli là. Sì. La versione originale o versione Fabio, cantata non lo so, italiana? Dai, vai avanti. No, penso questa... una versione cantata in italiano. Sveva, facci sapere se la vuoi, ecco. Versione originale, esatto. Oppure se cantata in italiano, perché potrebbe fare molta la differenza. Ecco. Sì. Vado? Vai. Ne ho facoltà? C'è una cosa in cui Michael Stipe, lo sentiamo sotto, non arrivare. Suggerire cose senza dire un granché, trasmettere sensazioni accostando parole in maniera molto molto singolare, usare immagini potenti per narrazioni sempre spesso enigmatiche. Succede anche nella canzone che stiamo per passare, che si chiama Drive to the Ocean, è il pezzo che l'Extreme ha pubblicato il 4 gennaio 2020 e diciamo la data perché era in occasione del suo 60° compleanno. La canzone ancora una volta, anche se questa è recente, come è stato per Lurid, è una sorta di profezia ambientalista, è un viaggio verso l'oceano che si svolge in un ambiente musicale irreale, e irreale non è solo l'ambiente musicale, diciamo così, ma è anche la stessa cover del singolo e anche il videoclip girato dallo stesso Stipe. Guardatelo perché merita. La musica è molto molto cupa, è come se si stesse aspettando un disastro imminente, appunto, o forse il disastro è già avvenuto. Beat e suoni elettronici sono abbinati a uno strumento a corde molto orientaleggiante, c'è un coro maschile e i protagonisti a cui il cantante dà voce sono attratti da una sorta di forza invisibile verso l'oceano e finiscono per trovarsi tutti radunati di fronte al mare. Non sappiamo, Stipe non spiega perché, che cosa ci vuole dire, non lo esplicita. Certamente la canzone è ambientata in un mondo che ha superato la soglia di non ritorno dei cambiamenti climatici, certamente, questo è quello che penso io, e che cerca nell'oceano una possibile via di fuga, o impossibile, non lo so, forse è troppo inquinato anche per poter fuggire, oppure, non lo so, Stipe ha voluto fare un racconto allegorico di una presa di coscienza globale, e questo sta a significare il fatto che tutte quelle persone si radunassero lì di fronte all'oceano, appunto, oppure più semplicemente una riflessione sulle conseguenze di un progresso ormai da anni che va avanti senza nessuna regola che non sia quella del profitto. Per l'intero 2020 gli introiti, i ricavi delle vendite della canzone sono andati a una organizzazione non profit che si chiama Pathway to Paris, è una una appunto organizzazione profi fondata da Jess Paris Smith, che è la figlia di Patti Smith, grandissima amica di Michael Stipe. Questa organizzazione, tramite iniziative pubbliche ed eventi culturali, vuole sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza degli accordi di Parigi sottoscritti nel 2016, gli accordi per combattere la crisi climatica. Intervistato appunto in occasione dell'uscita del brano, Michael Stipe ha detto: penso da sempre che in quanto esseri umani progrediamo solo quando siamo in grado di risolvere i problemi. Il nostro obiettivo più nobile è incoraggiare e garantire l'uso di fonti di energia sostenibile e di sostenere Gaia, la casa che condividiamo con specie, energie e forze vitali. In quanto a Pathway, mi piace vedere una generazione più giovane della mia che affronta questi problemi con vigore e con interesse, ispirando a sua volta ognuno di noi a incrementare il suo impegno e a muoversi con determinazione verso un futuro migliore per tutti. Questo ce l'auguriamo. Lui è Michael Stipe, la canzone Drive to the Ocean. Mountains, the crumbling west. I'll sing like the whales before man was a pest. Radio transistor, my friend by my side. I'll drive to the ocean I'll drive. And residue. We came to explore. Just look where that got us. Look where that got us. We've been here before. Radio transistor, my friend. Radio sand, radio the ocean, radio the end. Michael Stipe, questa è Note Cose Città, puntata dedicata all'oceano. Fabio, devi sapere che io conosco una ragazza che parla molto bene francese, quindi il prossimo nome sarà anche causa probabilmente di derisione nei miei confronti. Jean Pellevé. Ovviamente. Secondo me l'hai detto perfetto. Pure secondo me, infatti. Ridillo? Comunque, Jean Pellevé. Jean così? Jean, comunque, francese. È inattaccabile. Esattamente, francese, era un medico, uno scienziato, un inventore. Poi. Ma di chi parliamo, scusa? Di Jean Pellevé. Ah, scusa. e anche regista, come, come direbbe Anna Mazzamauro, ah, anche regista, un regista d'avanguardia per di più, che si è dedicato alla cinematografia divulgativa a scopi scientifici, una carriera decennale iniziata alla fine degli anni 20, in cui ha creato circa 200 cortometraggi su argomenti che vanno dall'astronomia ai piccioni, ma soprattutto lui si è dedicato alle meraviglie della vita marina, come il cavalluccio marino e il riccio di mare, per esempio. Ne ho presi due a caso estratti da i 200, è stato uno dei occhio al riccio. Occhio al riccio. Estratto così. No, facciamo pure un appello, insomma, occhio al riccio quest'estate. Noi dicevo occhio a te. Ah, occhio anche a me. Certo. Mani, ecco. Comunque, uno degli aspetti più affascinanti del suo lavoro era proprio il rapporto tra la musica e le immagini. Lui ha utilizzato, insomma, essendo stato per tanti anni a fare questi film, musiche che vanno da Duke Ellington fino alla musica elettronica degli anni 70, e nel 2001 l'International Film Festival di San Francisco ha commissionato agli Io la tengo la colonna sonora di 8 documentari di Pen Le Feu da riscrivere e suonare dal vivo. E questa colonna sonora è uscita in CD, si chiama The Sound of the Chance, scusatemi. Se siete curiosi, andateveli a vedere anche le immagini. C'è un cofanetto che è uscito qualche anno fa che contiene proprio i documentari, sono un paio di DVD se non sbaglio, e c'è anche il CD allegato appunto con la colonna sonora degli Io la tengo. Noi ci ascoltiamo, perché i brani sono abbastanza lunghi, ce n'è uno però un po' più breve dell'altro, che è una lunghissima introduzione, che è quella sul quale sto parlando, si discosta un po' dal resto della colonna sonora questo brano, poi adesso partirà, strizza l'occhio, sembra quasi una colonna sonora di un poliziesco degli anni 70, un po' un jazz elettrico alla Miles Davis. Invece l'oggetto il soggetto del commento musicale è? Shrimp Story, le storie dei gamberetti, loro sono Io la tengo. Sbagliato, perché noi ci stiamo ascoltando Archins. Ho sbagliato traccia, chiedo scusa, perché pensavo fosse l'introduzione. Shrimp Story, Io la tengo, l'introduzione, però mi sa che ce la saltiamo o l'ascoltiamo, che dici? Lasciala. 6 minuti allora. Oh, La tengo. Io comunque volevo fare una cosa fighissima, parlare sull'introduzione, mi ero segnato esattamente il momento, fare l'ingresso. È il bello della diretta. Proprio che la gente diceva: ma Pippo non ti ha segnato niente. Mortacci gli è partita e invece ho proprio sbagliato canzone, non l'attacco, pensa. Comunque ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ha chiamato, che ci ha segnato Ocean dei Pearl Jam. E sì, ce n'erano tantissime di canzoni dedicate agli oceani, è stata una dura selezione. Comunque siamo arrivati quasi alla fine. E il primo giugno 1973 cade dalla finestra di una casa di Londra dove stava festeggiando il 40° compleanno della poetessa Kelly Smith, all'epoca con i Gong, Robert White, e Wyatt, anzi, per le conseguenze della caduta resterà paralizzato, potrà muoversi soltanto su una sedia a rotelle. Durante la degenza in ospedale prende forma quello che diventerà Rock Bottom, nel quale Robert Wyatt ci racconterà il suo viaggio negli abissi, metafora della sua condizione fisica e anche mentale. Lui si era appena, anzi no, appena no, era già passato un po' di tempo, era stato allontanato da... Oddio, c'è un vuoto. E The Soft Machine, gruppo che lui stesso aveva fondato, non aveva mai digerito molto questo allontanamento, ha iniziato a soffrire poi di depressione ed alcolismo. Comunque un'immersione faticosa, difficoltosa, lenta, ma anche un'ottimistica risalita per Wyatt, che corrisponde, lo dice lui stesso, ad una resurrezione, ad una seconda vita, proprio in cui, diciamo, si è lasciato alle spalle tutto quello che era successo in precedenza, il suo artista che suonava la batteria, cosa che non potrà più fare, e si dedica quindi alla composizione, alle tastiere e soprattutto al canto, lo strumento protagonista di Rock Bottom. E qui ci riallacciamo a quanto anticipato presentando Björk, che anche lei evidentemente è rimasta incantata da questo lavoro, avrà quindi chiesto a Wyatt di collaborare. Wyatt utilizza un linguaggio fatto di onomatopee, di imitazione degli strumenti con la voce, un linguaggio musicale che ha delle melodie straordinarie in un'opera, questa qui, Rock Bottom, al di là di ogni genere, di ogni etichetta musicale, dal quale nascerà anche una delle più incredibili opere artistiche, dove il legame proprio tra l'uomo e l'opera d'arte coincide. Molti gli amici che andranno in suo aiuto, alcuni parteciperanno all'album, c'è Mike Oldfield, per esempio, c'è Nick Mason dei Pink Floyd, che prima organizzerà un paio di concerti di beneficenza, uno proprio insieme ai Soft Machine per devolvere gli incassi, e Nick Mason che produrrà anche Rock Bottom. Un'altra figura che ricorre per tutto l'album, fondamentale per la rinascita di Wyatt, è la moglie Alfie, che diventerà poi la sua manager, si occuperà anche di scrivere alcuni testi e sarà lei stessa a disegnare la copertina del disco. La figura di Alfie appunto è sempre presente, lei assume nel corso del disco sembianze di pesci o creature marine e che lo aiuteranno proprio a rimergere dagli abissi. Lo stesso giorno dell'uscita del disco, il 26 luglio 1974, Robert e Alfredo appunto si sposano. Il brano che abbiamo scelto è il secondo dell'album Last Straw. Nella prima traccia, Sea Song, che aveva questo titolo, che probabilmente sarebbe stato anche più adatto per la nostra puntata, però diciamo è quello in cui c'è il tuffo in questo oceano. Però adesso iniziamo a scendere, iniziamo ad andare sempre più giù, gli strati sono sempre più fitti e indefiniti, sempre più freddi. A portarci in questi abissi è Robert Wyatt, A Last Straw. Thank you. disastro Robert Wyatt. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alle sgoccioli. Siamo arrivati al porto finalmente. No? Vai, parla. Io devo fare una cosa. Che devi fare? Tu ti preoccupa, parla. No, mi distrae, scusa. Sei il tutore. Beh, siamo arrivati alla fine e abbiamo lasciato come ultimo il primo pezzo che ci veniva in mente quando abbiamo deciso che la puntata sarebbe stata dedicata agli oceani. La canzone 1983, A Merman Should Be, di Jimi Hendrix, tratta da Electric Ladyland. L'abbiamo lasciata in coda per la sua lunghezza, sfiora i 14 minuti. Fatto... Aspetta. Dai, la canzone per la bambina sveglia. Qui c'è un semidio che è perfetto. Ok, basta così. Basta, per Sveva basta questo? Per Sveva basta questo. Ok, Sveva mi dispiace. E non è responsabilità mia. Dicevo, la canzone l'abbiamo lasciata in coda perché dura 14 minuti. Oggi è un fatto raro, ma era abbastanza una prassi a cavallo tra gli anni 60 e 70. E si tratta di un brano ambientato nel futuro, su una terra che Hendrix immagina sull'orlo del baratro, distrutta dalla guerra nucleare. Il chitarrista e la sua compagna scappano da questo paesaggio desolante, raggiungono il mare, fanno l'ultima volta l'amore sulla terraferma e poi si immergono nelle profondità marine per sfuggire appunto all'orrore del mondo, fino a raggiungere la mitica Atlantide. Il mood sottomarino è costruito alla perfezione dalla chitarra di Hendrix e dal flauto di Chris Wood dei Traffic, ospite del brano. Dopo qualche minuto però Hendrix stesso lo distrugge a forza di distorsioni. Così descriveva la cosa un giornalista di Rolling Stone recensendo il disco alla sua uscita, quindi nel 68. Appena l'ho ascoltato ho pensato: ma perché l'ha fatto? Poi ho capito, Jimmy ha creato un mondo meraviglioso e ha deciso di farlo a pezzi prima che lo facesse qualcun altro. Scusate, un'ultima curiosità: Hendrix dice di ambientare il brano nel futuro, e appunto questo futuro è 1983. I motivi possibili lui non l'ha mai spiegati, insomma, o forse nessuno gliel'ha mai chiesto. Comunque due sembrano i motivi possibili: 1983 è l'anno che precede il fatidico 1984 di George Orwell, e come a dire, forse c'è ancora il tempo per fuggire a quello che al destino che ci aspetta. Però 1983 è anche il comma del Civil Rights Act, dove si dice che chiunque, se privato di un diritto, ha la possibilità di ottenere giustizia. Almeno questo dicono le leggi americane. Forse siamo ancora in tempo, forse otterremo giustizia. Male che vada, impareremo a respirare sott'acqua. Lui è Jimi Hendrix. La canzone è 1983, A Merman I Should Be. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao a tutte e ciao a tutti. Buona serata e di sostenere Radio Onda Rossa. To take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn, away from the land so battered and torn. Such a mess, every inch of earth is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped flames continue to rain and cause screaming pain, and the Arctic stains from silver blue to bloody red as our feet find the sand and the sea is straight ahead. Today, well, the machine So my darling and I make love in the sand to salute the last moment ever on dry land. Our machine and its dentist work fed us quite well, without a scratch on our body and we bid it farewell. Starfish and giant flumes greet us with a smile. Before our heads go under, we take a last look at killing noise. Warp the other style. Smiles from her maid. I can hear a letter full of cheer.